ho scoperto che è una di quelle donne di cui si ha molta paura. Ho ascoltato, ho trovato una conferenza fatta bene che vi avevo anche segnalato, anche se io non mi sento per niente di sinistra, perlomeno non di sinistra politica. L'ho vista quella. L'hai L'avevo vista ascoltata? prima che la mandassi tu. Sì, lo Bene, so. ok. E questa docente che però ha fatto la sua conferenza presso la sede, credo, di Fondazione Comunista di Sì, Savona, qualcosa però di non ha dato un taglio politico alla politico, cosa, sì. perché Rosa Luxemburg non è stata in realtà una politica, è stata, ma anche dire economista è poco, è stata una pensatrice con la P maiuscola, come Ipazia, una filosofa. Se vogliamo pensare che filosofia vuol dire amico della sapienza, quindi della sapienza a 360 gradi. E questa donna, questa docente, diceva che Rosa Luxemburg è stata proprio fatta oggetto di una damnatio memoriae, come Ipazia, come il De Garda, no, perché il De Garda, comunque essendo nel clero, l'hanno dimenticata ma non l'hanno cancellata. Ma tante altre grandi pensatrici sono state volutamente proprio travisate, e questa docente, di cui non ricordo il nome, vi farlo vedere, diceva, come si chiama questa, Rosangela Pesenti, diceva che in tanti anni di studio lei non aveva mai trovato una biografia di Rosa Luxemburg scritta che non fosse sciatta. Usa proprio questa parola, Sì. cioè buttata lì in qualche modo, perché nessuno si è mai preso la briga di scavare sotto. Cosa succede? Ah, la batteria è carica, ok. Sotto all'apparenza, quindi in apparenza lei è stata una militante politica, ma in realtà è stata molto, molto di più, perché lei è stata, secondo me, anche una profetessa, anche una veggente. Le cose migliori che ha scritto le ha scritte dal carcere, è stata tantissimi anni in carcere, e a un certo punto mi è successa una cosa strana, perché la prima cosa che ho guardato di lei è stato il film della Fontrotta, e mi aveva colpito molto. A me piacciono molto i film della Fontrotta, perché sono molto rigorosi nella loro impostazione storica. Poi da lì però sono andata in biblioteca, ho preso L'accumulazione del capitale e me lo sono letta e l'ho registrato. E nel registrarlo cioè ogni tanto mi accorgevo che mi perdevo, cioè le mie corde vocali continuavano a lavorare, però ogni tanto dovevo stoppare la registrazione e tornare indietro perché mi ero persa. Obiettivamente, insomma, poi lei oltretutto scriveva in tedesco, quindi. Però adesso, riascoltandola per preparare la lezione, invece, è stato un miracolo, perché improvvisamente ho visto il quadro generale che lei aveva visto. E questo quadro generale praticamente è la storia dell'umanità che sta terminando nei nostri giorni. Cioè lei, ai suoi tempi, aveva fatto un'analisi del capitale talmente proiettata in avanti, talmente lungimirante, che praticamente ha raccontato quello che sta succedendo oggi, quello che l'Europa sta facendo oggi agli stati, no? Quindi la perdita del sovranismo, eccetera, eccetera. E sulla vita non mi soffermo tanto, anche perché non c'è molto da raccontare, poi comunque io preferisco sempre dare più consistenza alle opere. Proprio quattro cose: polacca, questo lo sapete, scappò dalla Polonia perché era ricercata dalla polizia, perché lei faceva attivi, fin da ragazzina fece attivismo, un po' come ricorda molto Marie Curie come personaggio, no? Anche se Marie Curie, sempre polacca, sempre anche lei ricercata dalla polizia, perché anche lei era attivista politica, però una scappò in Francia e prese il Nobel, l'altra scappò in Germania e fu massacrata. Quindi forse nel caso dovessimo decidere di scappare, andiamo in Francia. Germania. Sì. Conviene. In Germania, io non ricordo esattamente dove si è laureata, ma mi sembra che si sia laureata a Berlino. Non so se mi potete aiutare, se ve lo ricordate. Comunque non è influente. A Berlino lei contattò poi l'Internazionale Socialista ed entrò a far parte. Lei già era la compagna di un militante dell'Internazionale Socialista. E E quindi era gioco forza che lei entrasse in politica, ma con tutta una sua visione che i suoi compagni, diciamo, di partito non avevano minimamente. E questa signora Pesenti, questa che fa Mariangela, Rosangela Pesenti, questa questa conferenza che ho ascoltato, dice che c'è pochissimo tradotto in italiano. In generale c'è pochissima roba tradotta della Luxemburg, e però lei dice che praticamente tutto il carteggio, lo scambio di lettere che lei ebbe con il suo compagno o con le sue amiche, che è importantissimo perché in quelle lettere lei apre il suo cuore mentre era in carcere, racconta quello che succedeva, quello che lei pensava, le visioni che aveva, tutta questa roba non è disponibile, è solo in polacco, quindi praticamente sono i volontari che decidono ogni tanto di prendere un pezzo di Rosa Luxemburg e tradurlo, ma non esiste una volontà editoriale come per tanti altri personaggi, come può essere la Beauvoir o come può essere la Montessori che è stata tradotta in altre lingue. Cioè di Rosa Luxemburg non si vuole nemmeno tradurla. E lei terminava appunto dicendo: chi ha paura di Rosa Luxemburg, parafrasando la famosa pièce teatrale, chi ha paura di Virginia Woolf. Perché dice, lei diceva, persino quando ci sono questi incontri con la sinistra storica e si parla di Gramsci, si parla di Marx, si parla di Lenin, si parla, lei non è mai nominata, non esce mai. Nella sua biografia è sempre ridotta all'osso, quindi i casi sono due, o è troppo grande per essere capita, oppure c'è una precisa volontà di rimpicciolirla, un po' come adesso cambiando completamente genere, ma un po' come è successo con la Mary Poppins della Travers, con le otto opere della, non so se state ascoltando sulla Scuola delle Donne la versione integrale originale di Mary Poppins che sto leggendo, che ho appena finito di leggere io, che è un altro pianeta rispetto alle versioni cinematografiche cui ci hanno abituato, perché sono praticamente dei manuali di esoterismo. Tu hai ascoltato qualcosa? No, perché già non ci ho dato qualcosa, mi sembrava eccessivo da è carino da ascoltare, perché la Travers è stata un esoterista e ce l'hanno spacciata. Anzi, neanche, cioè la maggior parte della gente è convinta che Mary Poppins l'abbia fatta Disney, l'abbia creata Disney. No? E quindi questo è un po' il destino di tutte le grandi donne che vengono rimpicciolite, se non possono proprio essere dimenticate, vengono ridotte all'osso e quel poco che viene detto è male capito e male compreso e peggio raccontato. Praticamente lei passò tantissimo tempo in carcere, ogni tanto la arrestavano, poi la mettevano fuori, poi la rimettevano dentro, fece 3 anni filati durante la guerra. L'ultima guerra nella quale lei fu viva, che mi ricordo se era la prima o la seconda, vediamo se c'è scritto, non me lo ricordo, francamente non mi interessa. E quando uscì dal carcere l'ultima volta, dopo pochi mesi fu assassinata. La tradizione racconta che fu assassinata, io stessa pensavo fino a un mese fa, fu assassinata dai suoi stessi compagni di partito, da soldati per ordine dei socialdemocratici, perché era una pacifista, una non violenta, e lei stessa a un certo punto si era addirittura messa contro la sinistra, cioè lei ce l'aveva con Lenin perché diceva che aveva trasformato in dittatura quello che invece era un movimento popolare, ce l'aveva con Marx perché secondo lei aveva fatto anche lui degli errori e aveva avuto delle visioni poco concrete, quindi lei ce l'aveva col capitale, col capitalismo, ma ce l'aveva anche con la sinistra. Era totalmente autonomo e indipendente, tant'è vero che all'uscita dal carcere ha fondato una sua lega, un suo organismo, tra virgolette, politico, che si chiamava la Lega Spartachista, perché Spartaco è stato, conoscete la storia, la liberazione degli schiavi. Esatto, la rivolta degli schiavi, quindi lei l'ha chiamata la Lega Spartachista. Ma in realtà lei addirittura c'è un passaggio in cui dice che anche la rivoluzione cinese, quella russa e quella turca, che sono state fatte in nome della sinistra, sono state manipolate dal capitale. Perché dice c'è una sola cosa sulla quale tutti gli uomini sono d'accordo, ed è quella di possedere la terra. Quindi lei addirittura dice, per esempio, la Francia negli ultimi 300 anni è passata da rivoluzioni contro rivoluzioni, la Comune di Parigi, poi c'è stata la Restaurazione, poi sono tornati i Borboni, cioè nel giro di 300 anni ha cambiato e ricambiato quante volte la sua, perché c'è stata la Repubblica e poi c'è stato Napoleone, poi l'Impero, poi ogni tanto c'è questo enorme cambiamento. Dice, l'unica cosa sulla quale tutta la Francia era assolutamente stabile era quella, la politica coloniale. Perché io mi sono fatta questa idea che in Rosa Luxemburg c'è una visione che secondo me anticipa un po' gli studi di Maria Gimbutas, cioè c'è questo collegamento forte. Lei aveva percepito, Rosa, l'importanza dell'economia delle comunità, le comunità anche matrifocali, perché lei parla chiaramente nella sua accumulazione del capitale, parla chiaramente delle comunità matrifocali magrebine, come si chiamano magrebine, quelle native algerine. C'è una parola che in questo momento mi sfugge. Le comunità kabile, che sono i nativi algerini, che erano gestite dalle donne. Quindi lei aveva identificato un tipo di economia, ma parlando di economia in senso spirituale, non l'economia che intendiamo noi in senso bancario e finanziario. Economia, scisso in due parole, ecos o ecos, che significa comunità, villaggio, e nomos significa regolamentazione, ma nel senso di ottimizzazione delle risorse. Quindi la parola economia, questo l'ha detto un altro economista che si chiama De Vara, che non conosce nessuno, nel suo Economia, nel mio Economia, il futuro senza denaro, ho analizzato questa parola, oikos, nomos, cosa vuol dire? Non c'entra niente con la visione dell'economia che abbiamo noi. Economia originariamente significava la regolamentazione delle risorse del villaggio in maniera che tutti stessero bene, ossia l'economia matrifocale. Era questa, no? Matrilineare, matrifocale o matriarcale, se vogliamo anche usare questa parola. Quindi lei riesce a identificare questo tipo di economia che lei chiama economia naturale, ossia in tutti i luoghi del mondo dove ci sono comunità tribali che condividono liberamente i loro beni, che si producono da sé tutto quello che serve. Quindi chiama questa commissione di agricoltura e artigianato insieme, e non dipendono da fuori, perché si producono tutto quello che usano serve, non c'è inquinamento, non c'è accumulazione, non c'è necessità di denaro. Questa è la comunità delle donne, l'economia matrifocale è esattamente questo. Quindi lei dice la prima forma di economia in tutti i luoghi della terra è stata questa, le comunità che vivevano lavorando la terra, costruendosi gli utensili, le donne tessevano, coltivavano il lino, poi lo trasformavano in filato, e queste comunità stavano bene, erano comunità nelle quali c'era tutto quanto quello che serviva, non c'erano debiti perché non c'era denaro, non serviva di fatto il denaro. Lei si è resa conto e qui mescolo un po' quello che ho letto di lei e le intuizioni che sono venute a me, perché era come se Rosa mi stesse parlando e mi stesse dando una chiave di lettura più ampia di quello che lei è riuscita a lasciarci, perché tenete conto che lei è stata assassinata a 48 anni, quindi ha avuto pochissimo tempo per sviluppare la sua visione. Probabilmente se avesse potuto avere altri 20 anni sarebbe arrivata a identificare dal punto di vista spirituale questa cosa, così come l'ho vista io chiaramente, partendo dalla sua base ho visto chiaramente la visione spirituale che lei aveva, ma lei non ha fatto il tempo. Ed è stata ammazzata non per motivi politici, ma esattamente per motivi economici, da quella stessa elite, dai sicari di quella stessa elite che oggi sta facendo quello che sta facendo in Europa e nel mondo, cioè l'elite finanziaria, bancaria, globale, chiamiamola se vogliamo, che non ha bandiera, che non ha nazionalità, che non ha religione, è esclusivamente un'elite neanche solo di denaro, è proprio un'elite di potere, è una serie di persone, una congrega di persone che ricercano il potere per il potere. Sono questi, esattamente questi, secondo me, che io sento profondamente che non è stata ammazzata, come dice la storia, dai suoi compagni di partito perché lei era pacifista e loro invece volevano fare la guerra. È stata proprio ammazzata perché lei ha visto chiaramente dove avrebbe portato il capitalismo, dove avrebbe portato il consumismo. e quindi è stata messa a tacere, perché le guerre servono al capitale. Allora, quello di cui io mi sono accorta è che sapete che poi lei praticamente uscendo da un convegno dove lei aveva parlato, l'hanno arrestata e le hanno dato una botta in testa e l'hanno buttata nel fiume, e il suo corpo è stato trovato poi nell'acqua, lei era morta chiaramente, tempo dopo. Mi sono resa conto, riascoltando l'accumulazione del capitale, che lei parla del capitale come di un'entità a sé stante, cioè non di neanche di un mucchio di soldi, come possiamo intendere noi. Per lei il capitale è un'energia. Ci ho scritto sopra anche un articolo grosso, perché mi è uscito proprio in canalizzazione. Cioè lei la vede proprio come un egregora, una forma pensiero, un qualcosa che è il prodotto della vita umana, ma che è uscito completamente di controllo ed è diventato un'entità a parte. Succede, no? Le egregore sono esattamente queste, no? Quando un gruppo sufficiente, un gruppo abbastanza grande di persone pensano tutte quante la stessa cosa, per un certo tempo questa forma pensiero si stacca e diventa autonoma. E siccome non ha cuore e non ha testa, ha solo pancia, l'unico suo scopo è quello di continuare ad alimentarsi. Non pensa ad altro, e per me lei il capitale lo vede in questo modo. Non è neanche una roba di destra o di sinistra. Tant'è vero che lei ce l'ha anche con le rivoluzioni di sinistra, perché dice lo scopo anche delle rivoluzioni russa, cinese e turca è stato quello di radere al suolo la comunità naturale, l'economia naturale, per trasformarla in capitalismo. Anche se noi crediamo che le rivoluzioni di sinistra siano state fatte per il popolo, di fatto non è così. Per esempio, l'economia naturale, l'economia rurale, dovrebbe essere l'unico baluardo che salva dal capitalismo. Perché se c'è una cosa, ci sono i guardiani e le guardiane della terra, i contadini. Quindi per poter proteggere il proprio paese dal capitalismo bisogna proteggere i contadini e le contadine, bisogna proteggere le comunità rurali. Cosa hanno fatto invece le rivoluzioni russa, cinese e turca? Che hanno portato via tutti i contadini e le contadine, le hanno messe a lavorare in catena di montaggio. Quindi in realtà, se voi pensate, l'assurdo è che queste rivoluzioni che sono state fatte per il popolo, in realtà non sono state fatte per il popolo, altrimenti avrebbero difeso e protetto i contadini, non li avrebbero deportati dalle campagne per metterli a lavorare nelle città. Io questo l'ho scoperto nel viaggio in Romania, perché leggendo della storia della Romania ho scoperto che tantissimi contadini rumeni deportati dalle campagne e messi a lavorare nelle fabbriche intorno a Bucarest si sono lasciati morire di depressione, di disperazione, perché non potevano stare lontani dalla terra. E così ho cominciato a interrogarmi, ho detto, ma è un controsenso questo, cioè una vera rivoluzione del popolo avrebbe dovuto proteggere la terra. Quindi lei l'aveva capita questa cosa, aveva capito che c'era quest'altra forza dietro alla destra e alla sinistra, un po' una visione un po' orwelliana, no? Creare questi due finti fronti contrapposti che depistino l'attenzione, mentre in realtà dietro c'è un'unica forza che muove. E qual è questa forza? La forza è il capitale, neanche il capitalismo, perché il capitalismo è già l'azione di nutrire il capitale, e questo lo fanno gli uomini, i capitalisti, che sono le marionette, sono gli schiavi di questa forma pensiero che ha bisogno di nutrirsi, ha bisogno dei suoi servi che vadano a procurare il cibo. Questa è la visione che io mi sono data e che secondo me mi è stata suggerita da Rosa. Cioè lei ha proprio l'idea di questa creatura mostruosa che lei chiama capitale, che non ha nessun altro scopo se non quello di ingrandirsi, di alimentarsi, di ingigantirsi, di riempire il suo ventre, e lo fa distruggendo tutto quello che c'è intorno, perché il capitale non protegge nulla, solo ruba, depreda, no? Lei ha sviluppato tutti gli step praticamente che dall'economia naturale, che dovrebbe essere quella che protegge, che difende la terra, e secondo me questa è proprio una versione sciamanica nativa, cioè lei identifica contadine e contadini, artigiani e artigiani, e lei dice non avrebbero dovuto essere mai separate l'agricoltura dall'artigianato, perché l'artigianato è nato come supporto per l'agricoltura. cioè i contadini si facevano le ceste, si facevano gli aratri, si facevano gli attrezzi che servivano, costruivano i telai per le donne, cioè l'artigianato non è un'arte a sé stante per vendere, inizialmente è nato per creare le cose che servivano alla comunità. Quindi lei dice che averli separati è stato un modo che ha avuto il capitale per far sì che i contadini dovessero andare a comprare i prodotti dell'artigianato e gli artigiani andare a comprare la roba da mangiare. Quindi per inserire il denaro in un processo che in realtà non avrebbe avuto bisogno di. Ah no, no, stavo pensando proprio che in un qualche modo prima tutti sapevano fare tutto. Esatto. E non sappiamo fare. Adesso noi siamo in quell'economia per cui tu sai fare la tua unica cosa, tipo la catena di montaggio, per cui se togli uno, eh sì, basta. Esatto. Perché tu non sai neanche cosa creerai alla fine, no? Cioè questa è un po' l'idea della società. Sì. Fatta così, cioè prima appunto si facevano un cestino perché gli serviva il cestino, adesso c'è quello che ti fa il cestino, non sa neanche cosa te lo userai il cestino, fa il cestino. Però tu devi avere del denaro per andarlo a comprare. Certo. Quindi devi fare a tua volta qualcosa di inutile per poter ricavare quel denaro. Via te è inutile, più che altro. Non è inutile di per sé, è inutile per te. Sì, certo. Quindi, allora, lei dice fa una curata disamina del capitalismo come forma economica distruttrice di tutto ciò che è naturale e basata invece sullo sfruttamento senza rinnovo di ogni risorsa semplicemente per alimentare se stesso, trasformando il mondo intero in un unico grande mercato consumistico. Questa è un'analisi che va al di là dell'economia, che va al di là della politica, che va al di là anche della filosofia, che secondo me è una visione spirituale nel senso più squisito della parola, cioè è una visione olistica. Questa è proprio la parola, ecco, la cercavo questa parola, è proprio una visione olistica che comprende tutto quanto. E lei l'ha vista in una maniera così chiara, perché ha detto, analizzando quello che è successo in tutto il mondo, quello che hanno fatto gli inglesi in India, che sono andati a distruggere le comunità contadine, che prima si producevano tutto, prima l'India era ricca, e poi, dopodiché sono arrivate le carestie, sono arrivate le inondazioni, è arrivata la povertà, la miseria estrema. L'hanno fatto i francesi nel Nord Africa, nelle comunità kabile, Tunisia, Marocco, tutti i paesi francofoni del Nord Africa. L'hanno fatto gli olandesi in Sudafrica, i boeri, lo hanno fatto gli inglesi e i francesi in Nord America e in Canada, l'hanno fatto gli spagnoli in Sud America. Il procedimento è sempre lo stesso. Prima di tutto che cosa fanno? Siccome io mi sono data... Mi sono creata questa immagine, questa è totalmente mia, ve la passo, se vi piace ve la tenete. A monte di tutto, che cosa c'è? C'è che il capitalismo è l'espressione massima del patriarcato, cioè è questa avidità, questa forma pensiero che nasce dall'avidità senza controllo e che pensa solo a nutrire se stessa, cioè il patriarcato, esattamente questo. Mentre la terra è l'espressione massima, è la grande madre. Che cosa vuole il capitale? Vuole impossessarsi della terra. Il capitale non vuole accumulare denaro, non se ne fa niente del denaro. Il denaro al capitale serve solo per comprare la terra, per comprare quello che c'è dentro nella terra, quello che c'è sopra, per comprare l'acqua, gli alberi, l'agricoltura, per comprare i metalli, tutto. Quindi è a livello di macrosistema è un modo del patriarcato di possedere la terra, cioè del maschio di possedere la femmina, del maschio di sottomettere la femmina. Ecco che cos'è in termini esoterici questo che lei ha visto. Ecco perché il capitale ha questo obiettivo morboso di possedere la terra, mentre la terra nelle comunità native non era mai stata posseduta, era sempre solo stata lavorata. Cioè la terra da sempre faceva parte delle comunità, ma nessuno mai era venuto in mente di dire questo pezzo è mio. Allora, che cosa ha fatto il capitale? Ripeto che è una cosa che non ha bandiera, che non ha religione, che non ha nazionalità, è un'entità a sé stante. Che cosa ha fatto? Come prima cosa è andato, e questo è successo in tutti i paesi dove c'erano queste comunità agricole forti, è andato e ha creato dei capi villaggio. Questi maschi, chiaramente, cioè ha tolto l'economia dalle mani delle madri, dei clan, che mantenevano una situazione di democrazia di fatto, di socialismo tra virgolette di fatto in senso spirituale, cioè tutto in società, tutto liberamente condiviso, e ha creato questi capi villaggio dicendo voi siete i proprietari della terra, quindi ha, come dire, inculcato un tipo di mentalità che non c'era prima, che è la mentalità del possesso della terra. Quindi per prima cosa ha detto ai capi villaggio, da oggi in poi voi siete i proprietari della terra. Dopodiché ha armato i capi villaggio e li ha messi contro i loro stessi compaesani, conterranei, e ha fatto capire, cioè, li ha fatti diventare dispotici, li ha fatti diventare esigenti, gli ha insegnato che potevano tassare, che potevano tassare i contadini, e poi è andata, sempre il capitale, cioè sempre questa egregora forma pensiero, è andata dal contadino dicendogli l'unico modo che tu hai per proteggerti dal capo che ti vuole tassare è quella di comprarti tu la tua terra. Riuscite a capire la perfidia di questa cosa? Chiaramente il contadino non aveva soldi per comprarsi la terra, perché non c'era il denaro nelle comunità. Allora che cosa ha fatto il capitale? Ha detto te lo do io il denaro, poi me lo restituisci con calma. E lì si è innescato il meccanismo, perché il capitale ha dato il denaro al contadino per comprarsi quello che prima era suo di diritto, ha creato queste divisioni all'interno delle comunità che prima erano assolutamente democratiche, paritarie, ha diviso, ha separato l'agricoltura dall'artigianato in maniera che ha proprio creato delle professioni, delle professioni, esatto, rispetto a quello che prima era semplicemente un lavoro condiviso per il benessere di tutta la comunità, e poi a un certo punto è andato a chiedere indietro i soldi. Quindi il contadino che non poteva restituire i soldi, che cosa faceva? Chiedeva un prestito per restituire i soldi. Quindi si è innescato, ed è così che si è impoverita l'India, che si è impoverito l'Egitto. L'Egitto era ricchissimo e a un certo punto i contadini si sono trovati, prima avevano la loro terra da sempre, la loro terra dei clan, si è trovata a dover pagare le tasse sulla capanna, le tasse sulle palme da dattero, tasse su tutto, perché aveva dovuto comprarsi la terra, perché gli avevano detto solo se tu ti compri la terra sei al sicuro dal capovillaggio, nessuno te la può portare più via. Quindi nel momento in cui ha avuto poi il capitale il pretesto, perché i contadini non restituivano il denaro, perché l'economia cominciava a zoppicare e a fare acqua, cominciava a entrare la carestia, cominciava a entrare la povertà, l'indebitamento, che cosa fa? Va con i militari e prende possesso, a quel punto la terra è sua. Cioè lo fa, allora diventa imperialismo. Cioè va di diritto, quello che prima era soltanto una, tra virgolette, una partnership economica, cioè il capitale ti consiglia di comprarti la tua terra e i contadini ci cascavano, nel momento in cui poi i contadini non riuscivano più a restituire i soldi perché non li avevano, quindi erano indebitati fino al collo ed erano costretti a disfarsi della terra perché non sapevano più come mantenerla, entrava allora l'imperialismo con i militari dietro, perché il militarismo, questo Rosa l'aveva visto benissimo, il braccio armato dell'imperialismo, e prendevano legalmente, tra virgolette, possesso della terra. A quel punto la terra era loro, perché era lo stesso contadino a vendere. Capite che razza di progetto? Quindi dall'economia naturale, lo step intermedio è l'economia mercantile, dice Rosa, cioè divido le professioni. Spezzo le comunità, spezzo le tradizioni tribali in maniera che quello che prima veniva scambiato e messo a disposizione di tutti debba essere venduto. Introduco il denaro nelle comunità, dopodiché il terzo step è il capitalismo, cioè l'azione del capitale di andare a depredare tutte le ricchezze in tutte le parti del mondo. È un'analisi di una perfezione, allora capite chi l'ha fatta assassinare. Rosa Luxemburg. Capite che c'è dietro quella stessa elite che oggi sta massacrando, sta distruggendo l'Europa, sta distruggendo il mondo, perché tutta l'economia mondiale in questo modo si è impoverita, perché il capitale andrà avanti così a fagocitare ricchezza finché non resterà nient'altro. Rosa dice però, lei dice questa maniera di agire ha un limite. ed è che a un certo punto tutti i mercati, anche i più periferici, saranno saturi. Cioè, a un certo punto non ci sarà più nulla da vendere perché non, nessuno potrà più comprare neanche una briciola, e a quel punto, siccome nessuno potrà più comprare nulla, i prezzi precipiteranno talmente di qualunque bene che per forza le produzioni industriali dovranno finire. Ma lei non, purtroppo non poteva prevedere che il consumismo si sarebbe trasformato in una malattia mentale. Cioè che dal consumismo di qualcosa che noi crediamo necessario, cioè ho bisogno di un maglione, me ne compro tre, perché c'è lo sconto, questo diciamo che è ancora una forma di consumismo esagerata, ma mi serve un maglione, mi serviva, alla base mi serviva un maglione. Lei non poteva pensare che alla fine il consumismo sarebbe diventato una malattia, cioè vado a comprarmi tre maglioni anche se non mi servono, semplicemente perché l'influencer mi dice che se non ho quel maglione lì io non sono nessuno. Quindi è diventata una forma, diceva questa Pesetti, di colonizzazione della mente, colonizzazione delle coscienze. Questo Rosa non poteva immaginarlo. Tutto questo è chiaramente portato da internet, portato dai social. Quindi Rosa diceva che il socialismo sarebbe stato una rivoluzione mondiale, ma lei con la parola socialismo ha proprio... Sentitela con una connotazione olistica questa parola, non con una connotazione di politica di sinistra, perché in effetti non c'entra niente con la sinistra. Nemmeno i suoi stessi compagni di partito la capivano quando lei parlava. Il mondo non ha capito niente di quello che lei aveva visto. Lei ha visto veramente tanto lontano. A me viene la pelle d'oca se penso che lei questa roba qui l'ha pensata in carcere 100 anni fa e ha visto con tanta chiarezza. Come ha potuto sapere lei, che era dentro in carcere, conoscere esattamente tutto il procedimento che hanno usato i boeri per scacciare gli africani nel nord e poi gli inglesi che sono andati a scacciare i boeri, e la guerra dell'oppio e il canale di Suez, cioè questa analisi storica, geografica, economica che lei ha fatto, come ha potuto farla stando in carcere? È chiaro che stava canalizzando, è chiaro che lei per forza faceva viaggi astrali, perché anche se le davano i quotidiani da leggere, ma c'era la guerra, quindi non era impossibile che lei potesse solo leggendo i quotidiani avere questa visione così chiara. Quindi per me, per forza, lei usciva fuori come il De Garda, cioè lei aveva una visione da sopra, da volo d'uccello, e anche in proiezione, perché quello che lei ha visto 100 anni fa è quello che sta succedendo oggi. Esattamente, cioè siamo alla colonizzazione delle coscienze e siamo alla fase del consumismo più decadente. Di fatto io credo che a questo punto l'unica cosa che può salvarci è semplicemente riprendere possesso del nostro buon senso, cioè riprendere noi possesso della nostra coscienza e dire no, cioè il maglione non mi serve, non esco a comprare un maglione perché non mi serve, punto, anche se ho 40 influencer che mi fanno un orecchio così dalla mattina alla sera. Cioè a questo punto la nostra salvezza è nelle nostre mani. Lei aveva previsto un movimento popolare enorme che avrebbe posto fine al capitalismo e l'aveva chiamata la rivoluzione socialista mondiale. Cioè lei diceva a un certo punto tutto il mondo insorgerà perché non ci sarà più mercato per vendere e comprare nulla, quindi il socialismo inteso come ritorno alle comunità native, autoctone, autogestite, dovremo per forza tornare lì. Io credo che ci torneremo, ma ci torneremo semplicemente perché, intanto perché le donne stanno risvegliando la loro coscienza e stanno cominciando a rendersi conto di tante cose e la stanno facendo capire ai loro uomini. E poi ci arriveremo per una via spirituale, non per una via politica o economica. È la spiritualità quella che alla fine porterà sicuramente quelli che saranno risvegliati, quelle che saranno risvegliate in tempo, a fare un passo indietro, a dire no, io non entro con questa roba. Perché, insomma, io credo che noi comunque lo stiamo già facendo. Ecco, lei disse che la rivoluzione sarebbe stata mondiale, ma non organizzata politicamente o militarmente, bensì spontanea, quando fosse entrato in crisi il capitalismo. Quando non c'è più mercato, cala talmente il prezzo dei prodotti che le industrie chiudono. Ecco, di base lei vede che il capitale è contro gli indigeni, è contro l'economia naturale, perché l'economia naturale protegge la terra, l'economia naturale è la guardiana della terra, le comunità indigene sono le guardiane della terra e il capitalismo come strumento del patriarcato vuole conquistare la terra perché la terra è madre, la terra è femmina, quindi per forza deve distruggere l'unica protezione che protegge quella terra che sono le comunità indigene. Non stai bene? No, in realtà ho il cappotto, sto cercando di resistere perché sennò dopo paura di avere più freddo quando uscirò dopo. Ecco, il capitale, quindi lei dice l'aristocrazia terriera locale fu creata artificialmente dal capitalismo occidentale per poi, tra virgolette, proteggere i nativi dalla oppressione dei proprietari terrieri locali che lui stesso capitalismo aveva creato, perché prima non c'erano, offrendo aiuti che si ritorcono sempre contro di loro, quello che vi ho detto prima, no? Tu compra la terra così nessuno ti può buttare fuori, ti do io i soldi. Il capitale inoltre non si preoccupa di preservare o migliorare il territorio occupato, ma solo di sfruttarlo. Scopo della produzione capitalistica, questo è un passo importante. Lo scopo della produzione capitalistica è quello di avere sempre più denaro da investire. Investire per aumentare continuamente questo accaparrarsi della terra. Quindi la produzione capitalistica ha come scopo non il consumo, cioè il grande industriale che produce un sacco di cose non se le produce per consumarsele, bensì per creare quello che lei chiama il plus valore, cioè per rivenderle, ricavare dei soldi che una volta coperte le spese vengono investite per comprare altra terra. Quindi sempre nuovi da investire, il che necessita sempre nuovi paesi da colonizzare per continuare l'accumulazione. Il capitale che si accumula crea altra accumulazione di capitale. È proprio un circolo vizioso che non ha nessuno scopo se non quello di alimentare questa forma pensiero sempre di più. Quindi il procedimento è di trasformare l'economia naturale in mercantile e poi questa in capitalismo. Questo hanno fatto gli inglesi in India, questo hanno fatto i francesi in Algeria, gli inglesi in Cina con la guerra dell'oppio, i farmer americani nel West, ecco, qui porta la... I farmers americani nel West, cioè i primi coloni, i primi che andarono via dall'Inghilterra e dall'Irlanda e andarono a coltivare l'America, lo fecero anche in maniera pacifica, cioè lì c'era tanta terra obiettivamente. Quindi che cosa fe? Lei dice, i farmers americani, farmers significa fattori, no? Come farmer vuol dire fattoria, nel West, annientarono i nativi con le armi, i mastini, l'alcol e la sifilide e sottrassero loro le terre deportandoli in aree sempre meno fertili a Occidente. Questi sono però già i farmers industriali. Ecco qui, i primi farmers immigrati inglesi e irlandesi, oltre a coltivare la terra, producevano i loro attrezzi, coltivavano canapa e vino, le donne filavano e tessevano, in ogni farm c'era laboratorio di falegname e fabbro, telaio e cardatrice, si allevavano oche per riempire con le piume imbottite e materassi, venivano fatti in casa i pezzi di ricambio per gli edifici, scarpe, stivali, si allevava, si coltivava, si conservava la carne, si trebbiava il grano, tutto era consumato, non occorreva denaro. La guerra di secessione mise fine alle farm autonome, cioè combattere contro gli schiavi, secondo lei, contro lo schiavismo fu soltanto un pretesto che il ricco Nord, il povero Nord, usò per appropriarsi delle terre del ricco Sud, no? A quel punto cominciò il latifondo, cioè lo sfruttamento della terra non per i propri bisogni personali, ma fino a se stesso, e nasce quella che lei chiama la bonanza farm. La bonanza farm è il secondo step, cioè sono quelli che cacciarono i primi farmers, cioè i primi farmers cacciarono i nativi. E poi è arrivata questa bonanza farm, che è un tipo di fattoria industriale, che scacciò i farmers sempre in territori sempre più periferici, che coltivava la terra con sistemi tecnologici industriali e solo a scopo di lucro. Installata sulle terre dei nativi, dove uomini e animali venivano sfruttati al massimo. I cavalli servivano per muoversi da una macchina agricola all'altra. Ogni anno i semi nativi venivano aumentati di 2000 ettari. Il farmer tradizionale, cioè quello che abbiamo visto prima, non poteva sopravvivere perché le bonanza producevano di più e a costi inferiori. Quindi il farmer tradizionale viene mandato fuori mercato dal fatto che i prezzi sono talmente bassi che lui non ce la fa. Ecco, questo in molto molto in soldoni è la visione che ebbe lei, che nota che praticamente successe in tutto il mondo, nell'est come nell'ovest, è stata ammazzata da sicari che avevano a cuore il difendere questo sistema economico. E io credo che ci fermiamo, perché altrimenti continuerei a ripetervi sempre lo stesso concetto, l'ho proprio riassunto al limite, però poi vi passo, vi mando per email gli appunti, come ho sempre fatto, anche perché vedo che tu stai tu devi andare via. Comunque è stata una cosa bella tosta, quindi io chiudo la mia. Se ci sono delle domande rispondo volentieri, però penso che chiuderei qui. Se mi posso permettere, non so se io vi ho parlato di questa visione che ho avuto quando avevo 5 anni, che poi ho trasferito in un libro che si chiama Economia, il futuro senza denaro, che è un po' lo sviluppo o l'origine o la conclusione di questa idea di Rosa Luxemburg. Ovviamente io non potevo saperlo perché la visione l'ho avuta che avevo 5 anni e l'ho poi pubblicata circa 15 anni fa. Sì, una quindicina di anni fa, quindi ancora non avevo iniziato a studiare Rosa Luxemburg né neanche Maria Jean Butas, però poi mi sono resa conto che tutto quanto rientrava in un unico disegno, perché la visione che avevo avuto io quando avevo 5 anni era di queste comunità dove tutto quello che veniva prodotto veniva messo liberamente a disposizione di tutti e dove ciascuna faceva quello che gli piaceva o le piaceva. A me piace coltivare i pomodori, io coltivo i pomodori e li metto a disposizione di tutti. A te piace tessere, tu tessi pezzi di tessuto e li metti a disposizione, ma non c'è uno scambio, cioè io ti porto un chilo di pomodori e tu mi dai una pezza. Semplicemente c'è, si lascia fuori di casa, a disposizione di chi serve. A me serve una pezza, io me la vengo a prendere, anche se in quel momento non ti do dei pomodori. Magari lei, cos'è che piace fare? Non mi dire cantare. Lei si mette a disposizione per cantare perché le piace, tu hai bisogno in qualunque momento di andarti a fare una cantoterapia, vai da lei, lei ti canta, anche se tu non le dai una pezza in quel momento, ma lei contemporaneamente viene a prendere i pomodori da me perché ne ha bisogno, e così le cose funzionano. E in queste comunità non esiste inquinamento, non esiste accumulazione, non esiste denaro e non esiste neanche infelicità, perché ciascuna fa quello che piace, segue il proprio talento, quindi non c'è neanche stanchezza, perché quando stai facendo una cosa che ti piace non ti stanchi, utilizzi i tuoi talenti al meglio per il bene della comunità, non esiste malattia, non esiste depressione, non esiste neanche la morte secondo me, e sono comunità dove tutte le risorse vengono sfruttate al meglio, dove tutti sono felici e non esiste neanche proprietà privata. Perché alla fine, nella mia visione, c'era che neanche la casa era mia, neanche i vestiti erano miei, cioè tutto quanto era sempre in comune. Un po' come nelle comunità cabile di cui parla Rosa Luxemburg, dove dice che ciascuno era proprietario giusto della tunica che indossava, ma gli abiti cerimoniali, i gioielli, le cose che venivano usate in cerimonia erano proprietà della comunità. E chi li aveva bisogno li andava a chiedere alla matrona, alla madre del clan, che gli permetteva o le permetteva di usarli per quella cerimonia. Poi venivano riportati, cioè c'era questa condivisione al massimo livello. Quindi in realtà non occorreva neanche possedere nulla, neanche l'alloggio. e nel proseguo delle mie visioni avevo proprio visto che avevo visto queste meravigliose capanne fatte, questa è una visione che ho avuto durante uno dei miei viaggi in Brasile, ho avuto questa visione di fiume di 4 ore che non finiva mai, in cui vedevo questi alloggi creati con una sorta di vetro organico, un vetro morbido, una sostanza che non c'è, non esiste. E questi alloggi però era possibile cambiare, cioè andare a dormire dove una persona aveva voglia, non, neanche si possedeva il proprio letto, cioè veramente era tutto quanto libero, non è, siccome ovviamente in queste comunità l'energia portante è quella della spiritualità, quindi del rispetto, non accadeva neanche che qualcosa venisse rotto, rovinato, sporcato, tutto veniva mantenuto in perfetto stato, perché quello che è mio è di tutti e quello che è di tutti è mio, quindi non mi viene neanche in mente né di rubare né di rovinare né di è la sublimazione della condivisione. Ecco, questa visione che io ho avuto l'ho poi sviluppata in questo libro che ho chiamato Economia Eco con la K, Nomia, che è scaricabile dal mio sito gratuitamente. E quando ho cominciato a studiare Maria Jean Butas mi sono resa conto che questa doveva essere proprio l'economia nelle comunità matrifocali. Questo quindi in realtà io ho avuto un risveglio di memoria, perché a 5 anni non potevo essere stata influenzata da letture o da cartoni animati. Io mi ricordo che una mattina avevo proprio questa, non so se l'avevo sognata o se era stato un sogno lucido, però poi negli anni mi sono accorta che era un risveglio di memoria, perché altri utopisti, tra virgolette, come Tommaso Campanella, Tommaso Baccone, Tommaso Moro, Francesco Baccone, avevano avuto la stessa identica visione. Quindi c'è stata questa economia, ci siamo passati, ce l'abbiamo nelle nostre cellule, memorizzata nelle nostre cellule. Alla fine del giro della spirale, sicuramente quelle di noi che riusciranno a fare il salto di frequenza riusciranno ad introdursi dentro e ritornare a questa economia. Sarà così per forza, perché noi ce lo ricordiamo ed è quello a cui vogliamo tornare, io voglio disperatamente. Quindi io collego gli studi di Maria Jean Butas, gli studi di Rosa Luxemburg in questo senso, con questa visione olistica, questa visione che ho avuto io, e ci metto dentro anche Simone Weil, comunque, perché anche lei, Simone Weil, aveva studiato e sperimentato in tal senso, cioè lei diceva non posso star bene se tutti gli altri stanno male, perciò empatia totale in tutte le comunità, io posso stare bene solo se vivo in una comunità che sta bene, come nel corpo umano, se c'è anche solo una cellula che si ammala, tutto il resto del corpo si ammala. Quindi la comunità non è ricca se c'è un capo clan ricco che accumula denaro e che si fa seppellire con il suo denaro, con i cavalli, i cani, le mogli e i figli. La comunità è ricca se tutti stanno bene, se tutti quanti hanno in abbondanza di che vivere, di stare bene, di che stare bene. Rosa tutto questo lo aveva visto, anche se non ha avuto il tempo di scriverlo, ma secondo me nel suo cuore lo stava sviluppando, perché me lo ha detto, me lo ha suggerito. Quindi con questa conclusione, direi, così ampia, chiudiamo i nostri incontri. Io credo che abbiamo toccato un po' tutte quante le... Siamo partiti dall'Inghilterra di Jane Austen e da quello che accadeva dentro nelle famiglie e dai libri, dei romanzi di Jane Austen in cui si parlava del matrimonio e delle ragazze che non potevano fare nient'altro se non sposarsi, e poi piano piano abbiamo sempre di più allargato fino ad arrivare veramente a comprendere tutta la storia dell'umanità dall'inizio, come ci mostra Rosa Luxemburg, e ad avere anche un'idea di dove stiamo andando e perché adesso. Cioè, se noi cominciamo a pensare al capitale come a un'egregora, a una forma pensiero che vuole nutrire se stessa, capiamo che cosa sta succedendo adesso e capiamo anche come tirarcene fuori. Tant'è che credo che è un grande strumento che sta nascendo adesso, al di là delle scelte personali che ognuno di noi può compiere, siano proprio tutte quelle aggregazioni di persone che si stanno impegnando per creare delle realtà differenti, sì, al di fuori di questa logica di consumo. Sì. Anche in questo senso credo che serva davvero un esercizio di consapevolezza costante, perché questo probabilmente è un circuito da cui è ancora più difficile tirarsi fuori, proprio perché siamo abituati a consumare comodamente. È una sfida non da poco. Sì, ma noi ci siamo incarnati in questo preciso contesto storico, spazio-temporale, perché abbiamo gli strumenti per farlo. E abbiamo le memorie cellulari, questa è una cosa importante che non va mai sottovalutata, cioè noi ci ricordiamo com'era. È come un cane sa tornare a casa se c'è già stato in quel posto lì. Quindi siccome noi sappiamo dov'è casa, per forza troveremo il modo di tornarci, se è quello che vogliamo. Certo, non in questa frequenza, sarà un cambio di frequenza, sicuramente ci sarà anche un discorso quantico, un salto di frequenza. Il salto di frequenza, il cambio di frequenza si fa con il risveglio della coscienza, con il risveglio delle memorie cellulari, con l'attenzione, questo. E io credo che a un certo punto succederà naturalmente, cioè a un certo punto semplicemente noi non la vedremo più questa roba, perché sarà su una frequenza sulla quale noi non siamo più sintonizzati. È come se avessimo cambiato, come se cambiare il programma radio, cioè la radio è sempre la stessa, ma tu cambi programma, ti metti su un'altra frequenza. Quel mondo che a noi non interessa, che non ci piace, duale, patriarcale, capitalistico, consumistico, continuerà ad esistere per quelli che vogliono stare in quella roba lì, ma sarà un programma che noi non sentiremo più perché noi avremo cambiato frequenza. Quindi in realtà non c'è da distruggerlo o da pensare che sia sbagliato, c'è il nostro lavoro personale per cambiare frequenza, non si può distruggere quella roba lì. Rosa lo vede chiaramente, cioè questo sistema c'è sempre stato, perché è il sistema del patriarcato, quindi della dualità. La dualità è un programma come tutti gli altri e ha il suo diritto di esistere per tutti quelli che ne hanno bisogno. Sta a noi tirarcene fuori. Quello che stiamo facendo qui con la scuola delle donne direi che è un bel pezzetto, intanto, perché ci siamo resi conto che ci sono state delle donne che hanno tracciato il cammino, quindi da loro possiamo avere ispirazione continuamente, anche se a scuola non ce lo insegnano, anzi, da adesso in poi noi sapremo che il sistema regolarmente rema contro questa cosa, farà di tutto per nascondercelo, quindi starà a noi andare a cercare, come diceva l'agente Smith in Matrix, tutti quelli che non sono risvegliati potenzialmente sono contro di voi, possono essere degli agenti potenzialmente, no? Cioè io mi accorgo nel mio piccolo, questo però lo voglio registrare, vai. Credo che alla base ci sia il concetto di felicità, nel senso che è proprio un sistema economico in cui noi dobbiamo essere infelici. Prima lo dicevi, infelici. L'infelice compra, l'infelice mangia, l'infelice consuma, perché deve riempire un vuoto dentro di sé che non colmerà mai in realtà, se non essere felice. E quando prima parlavi del ognuno fa la sua passione, in realtà non è tanto questione di passione, secondo me è questione di dono. Ognuno di noi ha dei doni, certo, che sono proprio la cosa che quando la fa, invece di consumarsi, si ricarica. Quando noi siamo al servizio, no? Io quando canto non mi stanco. Io quando canto mi rigenero di solito. Ognuno ha il suo. E non senti più bisogno di farti pagare per questo. Non senti bisogno di farti pagare, no? Ovviamente inserita in una società così, certo, da qualche parte i soldi devi prendere. O comunque devi avere del cibo. Certo, esatto. Se tu puoi venire da me a prendere i pomodori, puoi passare la tua giornata a cantare per lei, perché tanto sai che quando hai fame vieni e trovi i pomodori da me e non me li devi pagare. In questa società, certo, però questa purtroppo non è così. Io credo che comunque appunto il concetto di felicità sia proprio estremamente alla base di questa economia, di quell'economia di cui parlavi tu o di quella di cui parlava Rosa Lux. Perché se noi facessimo per vivere, anzi no, se noi ci dedicassimo tutto il giorno a fare ciò che amiamo, produrremmo una quantità incredibile di cose, è bellissima, perché ognuno ha fatto, cioè nel senso, se uno ha quella dote lì o quelle doti lì e passa la giornata per quello, sicuramente non è la stessa cosa che uno che è portato per cantare e lo mette tutto il giorno a battere ferro, insomma, cioè c'è proprio una differenza nella redditività. E sarebbero persone felici. Sì. Per cui le persone che consumano quelle cose che sono state prodotte sarebbero ancora più felici, perché anche loro arrivano ad aver passato la giornata a fare ciò che gli piaceva fare. E in più consumano cose fatte al meglio. Consumano, usano o comunque si nutrono di qualcosa fatto con amore, perché è fatto con gloria. Cioè credo che proprio il circolo virtuoso sia la felicità, il circolo vizioso sia l'infelicità. Sì. Cioè, se posso aggiungo una cosa, siccome da qualche parte dobbiamo partire, cioè finché continuiamo a pensare che in questa società non è possibile, non faremo mai, secondo me, lo scatto. Il trucchetto è cominciare a fare delle cose per servizio. Cioè, ma Rosa Luxemburg lo dice, non dobbiamo per forza fare le cose pensando di farci pagare per ogni respiro che facciamo. Lei non gliene fregava niente, lei scriveva, era in carcere, cioè lo scriveva perché sentiva di scrivere, non pensava di farsi pagare per questo. Ma la stessa Marie Curie non ha mai nemmeno registrato i brevetti delle cose che ha fatto, cioè le donne più grandi, ma la stessa Montessori non gliene, era la loro missione, no? L'utilizzare il loro dono, il loro talento per svolgere la missione per la quale si erano incarnate. A nessuno viene in mente di farsi pagare quando sta davvero facendo quello che. Allora, se ognuno di noi comincia a fare delle cose per servizio, invece di pensare sempre solo a farsi pagare, già cambia la frequenza, perché il servire ti alza la frequenza e mette in moto un meccanismo di boomerang. Per cui io faccio tantissime cose per servizio, per esempio, e mi accorgo che mi tornano indietro, cioè io ho sempre meno bisogno di denaro, ma pochissimo, davvero. Ci sono tante cose che io riesco ad avere senza bisogno di denaro. E mi si sviluppano le idee, proprio trovo il modo di procurarmele, o mi vengono regalate, quindi è un modo per partire, quello di cominciare a fare delle cose senza farle perché poi mi pagano, no? Non tutto, chiaramente, perché c'è ancora chi si deve mantenere, che io avevo fatto la richiesta specifica all'universo a suo tempo di non dover più, di poter usare il mio tempo per lo studio e per il servizio, che quindi ci arrivasse qualcuno che si preoccupassi di pagare i conti, e l'universo mi ha mandato mio marito, infatti. E per me mio marito è il mio sponsor, è quello che mi permette di poter usare il mio tempo per fare cose che poi non mi vengono remunerate, ma non mi importa, io sto bene così e mi rendo conto che davvero ho sempre meno bisogno. E io credo che il fare cose per servire inneschi un po' il cambio di frequenza. E in capanna del sudore, in Lakota dicono, quando fa troppo caldo e non ce la fai più, invece di preoccuparti di che tu stai male, prenditi cura della tua vicina, del tuo vicino, che sta soffrendo anche lei. Quindi sposti, no? Smetti di autocommiserarti e sposti. Io, c'è stato un periodo, prima di sposarmi, chiaramente dovevo lavorare per vivere e dovevo mantenermi, dovevo pagare le bollette. E c'erano dei momenti in cui facevo veramente tanta fatica, perché essendo freelance, ero giornalista freelance, quindi spesso non mi pagavano neanche le spese. Ho fatto dei periodi in cui io vivevo solo a Milano, c'era la mia amica dalla Puglia che mi dava da mangiare perché le arrivavano i pacchi da casa, perché sennò veramente non avevo i soldi per fare la spesa. E mi ricordo che nei momenti in cui ero più disperata, io regalavo del denaro a qualcuno. Magari gli ultimi 20 euro che avevo in tasca facevo l'elemosina. Oppure andavo in panificio, compravo 2 o 3 brioche e le regalavo al primo barbone, al primo clochard che trovavo, perché avevo capito che quello era il modo per innescare, no? Quindi sì, è così che funziona. Il servizio assolutamente è uno strumento che possiamo usare già da adesso.